Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. E siamo nuovamente in diretta qui su Radio Stonata, la radio che più stona, più suona, in diretta dal profondo sud. Era da tanto che non lo dicevo in diretta dal profondo sud, però ci va stasera. Ragazzi, sono un po' gasato, direi, perché è strano, cioè, trovare una coppia, cioè, già conosciamo il nostro grande Marco Allegri che viaggia con sua moglie, o lo stesso Luca Perissinotto, però questa sera ne conosciamo altri due giovani, che vi assicuro fanno delle foto fantastiche, fanno dei viaggi fantastici, sono belli, sono tutto. Loro sono Sara e Lorenzo. Buonasera, ben ritrovati qui su Radio Stonata. Ciao, buonasera a tutti. Ragazzi, allora, vi presentate un po', non so, dato che voi siete in due dall'altra parte, quindi vi potete alternare benissimo. Non so, partite voi e fatemi capire un po' come è nato tutto e poi parliamo del vostro viaggio. Certo, allora noi siamo una coppia da 3 anni. 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo, sì, però il nostro blog è nato un anno fa perché abbiamo deciso di mettere anche per iscritto le nostre emozioni mentre viaggiavamo e poi da lì è stato un susseguirsi di cose. Abbiamo un rovinio di viaggio. Esatto, abbiamo imparato anche a fare foto, a fotografare in modo professionale, insomma ci siamo sempre di più aggiornati, quindi adesso possiamo dire che siamo più tempo in viaggio che a casa ormai. Ovviamente sì. Però è la nostra passione, quindi non ci lamentiamo. No, non potremmo farne meno, assolutamente. No. E la nostra base è Bologna, quindi da cui siamo in diretta adesso. Stranamente. No, poi la cosa bella è anche la descrizione che fate di voi sul vostro blog, che è appunto la nostra casa è il mondo. Cioè, perché la vostra casa è il mondo? Perché noi diciamo che la nostra base è Bologna, però in verità siamo più spesso in case che non siano la nostra che nella nostra vera casa. Cioè ormai ci siamo abituati a non avere un posto fisso a cui pensare come casa. Casa può essere ovunque, quindi le nostre valigie sono sempre pronte. Sì, ci piace adattarci perché non viaggiamo sempre in hotel di lusso, anzi spesso siamo anche in tende. Case sull'albero. Esatto, siamo stati anche in una casa sull'albero, quindi ci piace proprio vivere ogni viaggio al 100%. Quindi siete anche alternativi nel modo di viaggiare. Ma una domanda che pongo sempre ai miei ospiti qui su Radio Stonata e viaggiatori per l'esattezza. Come hai preparato un viaggio? Cioè, come scegliete la meta, i giorni che stabilite in cui dovete fare il viaggio, cosa preferite utilizzare per il viaggio, se portate il sacco, se avete le valigie quelle super mega galattiche, cosa lasciate a casa e cosa vi portate dietro? Certo. Vabbè, lì dipende molto da viaggio a viaggio. Per esempio, per i viaggi lunghi è ovvio che preferiamo portarci magari delle valigie più grandi, Sara ne sa qualcosa. Io soprattutto perché sono appassionata di moda, quindi devo avere tutti i miei look. Diversi studi, prima di partire sempre i look per ogni giorno. Esatto, quindi diciamo che per i viaggi lunghi a me servono almeno 2 valigie. Però invece per i viaggi corti o comunque certi viaggi, per esempio siamo stati in Kenya, lì diciamo che ti devi adattare, quindi zaino in spalla e si va. O anche borsone, insomma. Esatto. Invece per quanto riguarda l'organizzazione, di solito noi ci ispira una meta, non ne stiamo a parlare tanto, decidiamo sul momento, perché più ci pensi più ti passa l'idea. Quindi ne parliamo e poi nei giorni successivi incominciamo a prenotare un po' il tutto, ecco. Sì, non siamo molto da improvvisazione, ecco, siamo più riflessivi, cioè, insomma, organizziamo per tempi i viaggi di solito. Sì, certo. Vi posso fare una domanda un po', diciamo, strana? Cioè, c'è stato un viaggio in cui avete pensato, guarda, se forse organizzavamo qualcosa in maniera diversa, questo viaggio veniva meglio, oppure no, non me l'aspettavo, c'è stato nel vostro viaggiare? Una cosa del genere? Sì, diciamo che la prima volta che siamo stati a Londra in verità sono parecchio delusa. Sì, forse perché abbiamo sbagliato noi a organizzare, non so, abbiamo beccato veramente un alloggio orribile in cui ci entrava persino l'acqua dal soffitto e quindi è stata un po' un'esperienza traumatica, anche perché eravamo in una zona parecchio brutta di Londra e noi non ce l'avevamo informata. Quello che è stato un po' sbagliato, ma anche la modalità di vedere Londra, perché abbiamo solo guardato le cose istituzionali, quindi Buckingham Palace, Big Ben, insomma, li avremmo dovuto col senno sì. di poi organizzare diversamente, nel senso magari concentratevi più su aspetti non troppo famosi di Londra, ma andare a vedere un po' magari anche cose non convenzionali. Esatto. Quindi quello è stato un po' un viaggio che andava rivalutato meglio. Però ecco. Di solito diciamo che non sono mai insoddisfatti, anzi. Esatto. Ah, ok. Ragazzi, io direi di fare una piccola pausa, ci ascoltiamo un po' di pubblicità, poi una certo. canzone e ritorniamo in diretta con voi qui su Radio Stonata a chiacchierare ancora di viaggi. Va ok. Bene. Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. Il viaggio. Radio Stonata. C'è your passion. E dopo aver ascoltato questo brano e un po' di pausa pubblicitaria per noi qui su Radio Stonata, ritorniamo nuovamente in diretta con i nostri due ospiti di questa sera, che sono Sara e Lorenzo. Li abbiamo conosciuti nella prima parte, loro viaggiano tantissimo, sono una coppia nella vita reale ma sono anche una coppia per i viaggi, quindi viaggiano tantissimo, ci hanno un po' spiegato come realizzano i loro viaggi, ma adesso vorrei entrare nello specifico con loro per l'argomento di questa sera, perché loro sono qui a raccontarci un viaggio che avete fatto in America, vero ragazzi? Esatto, sì. Abbiamo fatto un coast to coast di 40 giorni in America. Esatto. In America. E da dove siete partiti a fare questo coast to coast in America? Stranamente siamo partiti da ovest, perché tutti lo intendono il coast to coast partendo da est, quindi magari da New York, arrivare fino a Los Angeles e San Francisco. Invece noi siamo stati un po' anticonvenzionali, siamo partiti da San Francisco e poi abbiamo fatto un giro strano scendendo verso Los Angeles, andando da Vicente in nord, arrivando fino in Canada, addirittura a Toronto, e poi siamo scesi fino a arrivare a New York, in tutti i 40 giorni. Esatto. E di questi 40 giorni cioè, sono stati impegnativi dal punto di vista cioè, dello stare sempre comunque in viaggio, oppure era tutto ben programmato ed è uscito alla grande? Raccontatevi, che sono curioso. No, era ben programmato. Era programmato fino all'otto. Sì, perché noi siamo dei malati dell'organizzazione, però comunque essendo un on the road siamo stati parecchie ore in macchina tutti i giorni, quindi da quel punto di vista è parecchio impegnativo. Specialmente per me che guidavo sempre. Esatto. Vi posso dire, non avete pensato ad una moto, no? Sai, il viaggio americano, fare quelle grandi... È vero, no, hai ragione, solo che la moto diciamo che non è il massimo per nessuno dei due. No, siamo anche portatissimi perché, per la moto. Anche perché io avevo due valigie giganti, quindi non era molto... Non era comodissimo anche da portare. Esatto. Però hai ragione, è vero, in moto sarebbe stato ancora più figo farlo. Il sogno di tutti, i motociclisti, sì. Con un bel chopper, un Harley Davidson. Vedi, esce questa parte di noi uomini che amiamo le moto. Esatto. No, però anche in macchina devo dire che è stato bellissimo, ci siamo fatti praticamente 10.000 km alla fine, abbiamo contato. Sì. Quindi sì, ma veramente un on the road come si deve. La macchina sempre la stessa oppure durante il tragitto? No, sempre la stessa. Partita da San Francisco e consegnata a New York in centro. Esatto. È veramente... È sopravvissuta. Sì, senza neanche un problema, stranamente. Esatto. No, dai, perché... No, va bene. Siamo stati un po' fortunati. No, sto scherzando. Sì, possiamo dirlo. No ragazzi, sapete cosa vi volevo dire? Cioè, c'è stato durante questa attraversata, questi 40 giorni, una cosa che vi siete portati dentro, che ci pensate ora, che so, la sera, che chiacchierate tra di voi, dite, ma guarda che era bella quella cosa, che voi non avete raccontato nel vostro blog e me lo volete raccontare qua questa sera? Beh, sicuramente la notte che abbiamo dormito nella tenda indiana, nella Monument Valley, è stata tutte le stelle, un'esperienza veramente assurda, anche perché c'era questa tenda veramente indiana, proprio solo la tenda con un letto dentro. Tipo quella dei Team West. Esatto, immersi nella Monument Valley e non si chiudeva neanche la porta, quindi era proprio così, la tenda, non c'era la porta. E nel cuore della notte sentiamo un verso di animale proprio lì davanti. Tipo ululato. E sembrava quasi un coyote, quindi è stato un po' un momento di panico perché... non sapevamo come fare, però se ci ripensiamo adesso ci viene da ridere, insomma. Poi senza la luce, cioè c'era veramente solo la luce delle stelle, quella era veramente un'esperienza magica. Sì, sembrava di essere in un film, è stato veramente veramente assurdo. È stato un peccato farlo solo una notte, perché avremmo voluto passare magari anche due o tre notti lì e sarebbe stato ancora più bello. Sì. Quindi quello no, quello ci ripensiamo molto, però devo dire che ci sono parecchi momenti nel corso che ricordiamo ancora adesso, perché veramente è stato un viaggio così denso di avventure che è impossibile fermarsi solo a un episodio da ricordare. Infatti questo viaggio coast-to-coast voi lo raccontate dove? Esatto, lo raccontiamo sul nostro blog The Travelization. Esatto, si chiama The Travelization. Uh-huh. E ci sono tutti gli articoli a riguardo, le nostre tappe. Ci sono ancora anche molte tappe ancora che non abbiamo parlato, per esempio quella di Est, tipo di New York, ancora non siamo riusciti a parlarne perché... Sì, perché stiamo ancora scrivendo delle tappe precedenti, perché per ogni tappa vogliamo appunto scrivere precisamente ogni dettaglio, quindi da dove abbiamo dormito, cosa abbiamo visto, alcuni consigli anche pratici, quindi trovate tutto sul nostro blog. Uh-huh. Ragazzi, a proposito del blog, raccontateci un po' in diretta com'è nato, che cosa vi ha portato a far nascere questo blog. Certo. Semplicemente è nato l'anno scorso, in estate, perché io, che studiavo comunicazione pubblica di impresa all'università magistrale, dovevo dare un esame in cui bisognava creare un blog e quindi ci siamo detti andiamo un utile a dilettevole, creare un blog di viaggi, e dopo che ho sostenuto l'esame da solo finisce anche Sara e cominciamo a curarlo assieme, e così è stato. Ho iniziato io a crearlo e a scrivere i primi 5 articoli io, e poi dopo si è unita Sara, e da lì è stato un susseguirsi di articoli, di viaggi uno dopo l'altro, in cui ci alterniamo. Sì, a scrivere. Diciamo che inizialmente appunto è nato come scopo universitario. Esatto. Per un esame, poi dopo... Poi viene detto vediamo come va. Esatto, vediamo come va, è andato sempre meglio, ci siamo sempre di più anche aggiornati e informati su varie cose, le foto, i video, Instagram e tutto, e adesso... Sì, anche perché ci è sempre piaciuto un sacco viaggiamo molto anche prima di creare il blog, quindi abbiamo detto dai, creiamo anche questo blog per raccogliere tutte le informazioni e suggerimenti da passare alle altre persone, per aiutarle, anche perché molti ci chiedevano già spesso, i nostri amici, magari dei consigli, quindi volevamo avere un contenitore dove raccogliere tutto, ecco. Quindi il blog è solo il vostro blog oppure è collegato a delle pagine social? Sì, certo, abbiamo una pagina Instagram che si chiama appunto The Travelization. Uh-huh. Dove ormai siamo quasi in 30.000 follower, quindi siamo molto contenti. Poi uh-huh. abbiamo anche una pagina Facebook, sempre The Travelization, poi siamo anche sì su Twitter, su altre piattaforme, però quelle principali in cui pubblichiamo quotidianamente sono Instagram e Facebook. Ah. Sì, sono quelle su cui ci concentriamo maggiormente. Quindi ora io in diretta vi sto cercando su Instagram, lo sapete? Ok. Perfetto. No, è bello, si fa tutto in diretta, quindi tutto live. Esatto, il bello della diretta, esatto. Ragazzi, non lo so, c'è qualcosa che mi volete raccontare sul viaggio, invece ritornando al viaggio in America coast to coast, che non vi ho chiesto, qualcosa che secondo voi è veramente importante o che ancora non avete scritto, dato che ancora non avete pubblicato tutti i vostri racconti di viaggio? Noi possiamo dare anche un consiglio a chi, non so, vuol pensare di fare questo viaggio. Sicuramente le cose che ci sono rimaste più nel cuore sono stati il Grand Canyon. Che sì, le regioni dei parchi sono state spettacolari. Ci siamo proprio commossi quando siamo arrivati lì davanti. E poi un altro che spesso è sottovalutato è l'Antelope Canyon. Uh-huh. Che è veramente uno spettacolo della natura, con la luce che filtra nella roccia. E noi consigliamo di andarci a mezzogiorno, perché è il momento proprio preciso in cui la luce entra dentro le rocce. E poi io ho avuto la fortuna di festeggiare il mio 25esimo compleanno a New York, e quindi è stata un'esperienza anche quella da film. Sì, è stata una giornata epica che non si scorderà più. Esatto, è stato. No, aspetta un attimo, Sara, che ora chiedo a Lorenzo. Com'è stata questa? L'hai organizzato tu, Lorenzo, immagino, sì, beh. Sì, ovvio, ho organizzato tutta la giornata con tipo 3-4 sorprese una dietro l'altra che lei non si aspettava. È stata una caccia al tesoro unica. Bellissimo. Sì, cioè, come una caccia? No, ora ce lo spiego. Una caccia al tesoro perché? Spiegaci queste quattro sorprese. No, perché io praticamente ogni 8 ore le mandavo magari dei messaggini sul cellulare. Uh-huh. In cui le davo degli indizi, e lei doveva cercare di capire dagli indizi che tipo di regalo sarebbe stato. E quindi piano piano ogni volta questi inviti diventavano, si rivelavano un regalo alla fine. Sì, esatto. E quindi alla fine sono stati, mi sembra, 3-4 situazioni regalo che le ho creato, che sapevo che a lei piacevano molto. Sì, soprattutto a Merda Tiffany, che è la mia passione. Ma veramente, cioè, Sara, cioè, proprio così, cioè, il regalo più bello che ti ha fatto Lorenzo è questo di andare da Tiffany. Sì, sì, sì, assolutamente. No, no, con questo proprio si è superato. Sì, ma l'abbiamo quindi, capito nella descrizione dei suoi bagagli, cioè, in questo viaggio due esatto. bagagli, quindi... Cioè, hai già capito tutto di me. Mi avete anche raccontato che comunque... ogni giorno era stabilito l'abito da indossare o l'abbigliamento da indossare, esatto, in quella giornata, quindi sì, cioè, sì, sì, una sì. organizzazione maniacale. Sì, sì, sì. No, ma maniacale è termine esatto. esatto. Purtroppo sì. Lo ammettiamo. Ragazzi, io... devo precisare solo Sara, era così, però. No, no, Lorenzo era molto più tranquillo, in questo, cioè da questo io punto di vista. Io ero casual ogni giorno, quello che c'era prendevo e ne mettevo. Poi se era abbinato con lei, tanto meglio. No, ragazzi, non lo so, spero che vi siate divertiti, non so se volete aggiungere qualcos'altro, se no io vi saluto e vi do appuntamento, se vorrete ritornare presto a raccontarci un altro viaggio qui su Radio Stonata. Certo, volentieri. Volentieri, salutiamo tutti, un grosso bacione. E alla prossima. Ciao ragazzi e grazie. Ciao. So she gon' call her friends, and that's a plan. Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it